La settimana scorsa ho ricevuto questa email. Dice così: "Ciao Don Giovanni, ci potresti dare qualche indicazione per fare dei complimenti veramente efficaci? Fare un complimento a una persona equivale a farle un dono grandissimo, inestimabile, e questo dono non soltanto le farà piacere e la farà crescere, ma farà anche crescere il nostro rapporto con lei. Allora, prima di darvi tre segreti per cui i vostri complimenti coglieranno veramente nel segno e saranno molto apprezzati, saranno molto utili, vi voglio prima dare qualche avvertenza, perché è importante tenere conto di queste piccole cose. Prima di tutto, cerca di non esagerare, di non riempire una persona di complimenti tutto in una volta, meglio dilazionarli magari nel tempo. E poi cerca di non essere ossessivo, cerca di non rivolgerti sempre alla stessa persona per non farle magari nascere strane idee, specialmente se la persona è dell'altro sesso. E poi, cosa importantissima, fai soltanto complimenti sinceri, non farli tanto per farli, ma falli se veramente pensi quello che stai dicendo. E se davvero il complimento è sincero, mantieni il contatto visivo con quella persona, anche questo aiuterà a far capire che stai dicendo cose veramente sentite dal profondo del cuore. E poi, mentre fai un complimento, sorridi, ma non ridere, non esagerare, perché è vero che a volte magari si è un po' in imbarazzo, allora anche una battutina serve a stemperare questo imbarazzo, ma attento a non dare l'impressione che magari la stai prendendo in giro. Ok, dopo aver letto attentamente queste avvertenze, passiamo a tre segreti per cui i tuoi complimenti coglieranno veramente nel segno. Primo, focalizzati sull'interiorità piuttosto che sull'esteriorità. Il classico complimento: come stai bene con quel vestito? Ma che bel taglio di capelli! Certo, ci può far piacere, ma non ti farebbe ancora di più piacere se ti dicessero: guarda, ho proprio apprezzato tanto come hai gestito quella situazione difficile sul lavoro. Oppure apprezzi di più quando ti dicono che sei stato bravissimo ad abbinare il colore della cravatta con il colore dei tuoi calzini, oppure quando ti dicono che apprezzano proprio quel lato del tuo carattere. L'esteriorità è alla portata di tutti, ma essere attenti all'interiorità non è da tutti, perché denota uno sguardo più profondo, un'attenzione più grande nei confronti della persona, e credo che a tutti noi faccia molto piacere quando riceviamo un segno di attenzione profonda alla nostra persona. Secondo, focalizzati più sullo sforzo che sul risultato. La tipica frase "complimenti per l'impegno" è vero che è diventata in un certo senso qualcosa di riduttivo. Non so, se fai una torta e ti dicono "complimenti per l'impegno", probabilmente vuol dire che questa torta non era granché. Ma immagina un'altra situazione. Immagina ad esempio un bambino che non sia ancora riuscito bene in quel piccolo compito che doveva fare. Immagina di dirgli: guarda, ti sei proprio impegnato, guarda, ti sei proprio sforzato, proprio notato che ci hai messo tutto l'impegno del mondo. Ancora un pizzico di impegno e vedrai che la cosa ti riuscirà proprio bene. Anche perché, pensaci bene, il risultato non è sempre alla nostra portata. Ciò che noi possiamo controllare è il nostro sforzo, è il nostro impegno, è il processo con il quale noi andiamo in quella direzione. E allora essere lodati per questo, piuttosto che per l'impegno, significa riconoscere che noi stiamo dando il massimo in ciò che è il nostro potere fare. E questo sicuramente, specialmente nei bambini, negli adolescenti, può accrescere molto l'autostima. Oppure immagina di dire a un tuo amico: guarda, so che sei in una fase molto difficile, molto delicata della tua vita e devi prendere delle decisioni molto importanti, e credo che tu sia stato molto in gamba a fare quella scelta. Terzo, focalizzati sulle cose piccole piuttosto che sulle grandi. E con gli amici, o ancora di più in famiglia, spesso le cose piccole le diamo per scontate. Eppure credo che la nostra vita sia composta per la maggior parte proprio da cose piccole, banali, quotidiane, invisibili. Ecco perché in famiglia, ma anche sul lavoro, nelle amicizie, è importante complimentarsi su cose piccole, perché in quel modo è come se le togliessimo dall'invisibilità. le restituissimo dignità e ridiamo importanza a cose piccole che nella stragrande maggioranza dei casi neppure ci accorgiamo che vengono fatte. Ok, la prossima settimana tratteremo un argomento correlato: come fare a ricevere complimenti. Sì, perché a volte nel momento in cui gli altri ce li fanno, un pochino siamo in imbarazzo. Allora impareremo come toglierci da questo imbarazzo. Ok, per adesso però esercitati a fare i complimenti secondo queste linee guida, questi tre segreti, senza dimenticare le avvertenze iniziali molto importanti. E a questo punto, beh, se sei arrivato fin qui, do per scontato che questo video un pochino ti sia piaciuto. Allora, se vuoi, potresti farmi un complimento che mi farebbe molto piacere. Lascia un commento, un mi piace e iscriviti al canale. Ma il modo più bello per farmi un complimento, sai qual è? Condividi questo video con i tuoi amici.